a slick chick. See, a neat trick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. A hot heels on for the baby blues. Very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. But everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Or even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. She's my clickety clicker stitchy. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She, it's a neat trick. But she, what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. You clickety click a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't you know she's a slick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click click click, yeah, yeah. Yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah. Ben ritrovate, ben ritrovati Slick Chick, lunedì 10 giugno 2024, oggi puntata in solitaria come ai vecchi tempi, sono da sola in regia per una nuova puntata di Slick Chick che oggi vi racconterà di un tema a me caro che vi ho propinato in realtà varie volte, ma questa volta lo pigliamo da un'altra angolazione. Oggi parleremo della Factory di Andy Warhol. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash, girl child in the dark. Servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Down he sins of street life fancies. The costumes she shall wear, ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. The boot of shiny, shiny leather, shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Dicevamo la Factory di Andy Warhol, Silver Factory, questo era il nome con cui era in realtà più conosciuta e rimase famosa, la fabbrica d'argento di nome e di fatto, perché da tanti punti di vista potremmo dire, perché era ricoperta d'argento, perché fece fare un sacco di soldi al suo creatore, perché era una fabbrica di fatto, fabbricava continuamente prodotti, lo vedremo, insomma. La Silver Factory era una fabbrica anticamente, era poi divenuta abbandonata, una fabbrica di vecchie scarpe, a dire il vero, no scusate, di cappelli, una fabbrica di cappelli che era nel, si trovava a Manhattan, a New York, a Midtown in particolare, e era una fabbrica appunto in disuso, come siamo ormai abituate a vedere spesso queste fabbriche vengono riutilizzate in Italia e non solo in Europa, in particolare siamo usi e use occuparle. Ecco, in quegli anni, si sta parlando dei primi anni 60, questa fabbrica venne affittata a un prezzo anche abbastanza modesto da Andy Warhol per farci il suo studio, ma lo vedremo, non solo studio, divenne un po' un pullulare di vita, di arte, un ritrovo per tutto l'underground, chiamiamolo così, e tutto un certo tipo di mondanità più o meno glamour, anzi direi sicuramente completamente glamour, ma più o meno mainstream, che in qualche modo popolò gli anni 60, la controcultura americana degli anni 60 e non solo americana, poi vedremo. Come dicevamo, nel 1962 Andy Warhol prende possesso di questa vecchia fabbrica di cappelli, che era essenzialmente svuotata completamente, era un loft, immaginiamocelo come un grande loft al quinto piano di questo grande palazzo a Manhattan, e tra l'altro questo edificio non esiste più ormai, è stato demolito, e E tra l'altro anche la Factory precisamente in questo edificio alloggiò soltanto tra il 62 e il 68, parliamo di 6 anni, un arco di tempo anche abbastanza modesto se vogliamo, rispetto a quanto poi ha influito sulla cultura occidentale perlomeno degli anni a venire. E però nonostante ciò, nonostante si trattasse di un arco di tempo piccolo, poi dopo traslocò, appunto, diciamo che 6 anni fu soltanto il tempo in cui la Factory rimase in quell'edificio, ma poi appunto perché doveva venire demolita si spostò altrove, poco oltre se dobbiamo dirla tutta, e l'avventura, chiamiamola così, continuò. Era uno studio, un punto di ritrovo, un atelier d'arte, di fatto questo era probabilmente il primo obiettivo di Andy Warhol, il motivo anche per cui l'aveva affittata, ma poi diventò molto, molto di più. Divenne famoso fondamentalmente per le feste, all'inizio almeno, grandi feste a cui non potevi non partecipare, e già la prima festa che fecero, ovvero la festa di inaugurazione, proprio nel 62, fu un qualcosa di estremamente memorabile, dove si incontrarono, si potevano incontrare vecchie dive, Greta Garbo, tutta la vecchia Judy Garland, le grandi dive mai passate di moda, e in fondo però un po' sì, e le nuove dive, lo vedremo, tutta una serie di persone strane, per si è messa accanto a Judy Garland probabilmente, ambigue, particolari, tormentate sicuramente da una moralità non conforme a quella dell'epoca. E cosa successe? Successe che a questa inaugurazione, dove c'era un po' di tutto, c'era dai surrealisti, da lì chiunque, poi lo vedremo, attraversava quel luogo e in particolare incuriosito arrivò all'inaugurazione. A questa inaugurazione le vecchie dive, che dovevano fare un po' da traino, dovevano un po', erano chiaramente state messe lì da Warhol per sponsorizzare l'avvio di questa nuova grande avventura della Factory, in realtà acchiapparono molto meno la curiosità, soprattutto dei giornalisti, rispetto a queste nuove dive venute un po' straccione, un po' particolari, queer, strane, che vivevano in strada, lo vedremo, strane dive, e queste acchiapparono sicuramente di più l'entusiasmo e la curiosità. E Andy Warhol, molto molto furbo e molto attento a questi dettagli, se ne accorse e decise sicuramente di investirci. Dicevamo una Silver Factory perché lo era proprio davvero, nel senso che a un certo punto si narra che Warhol vide a casa di un suo grande amico, e poi diventato uno dei suoi collaboratori più stretti, il fotografo, un fotografo e regista che di fatto animò la Factory, era un po' una delle colonne portanti della Factory. A casa sua vide, o nel suo studio, non ricordo, vide che lui aveva avuto questo fotografo aveva avuto questa idea di foderare tutto di carta argentata, di stagnola. Warhol rimase estasiato da questa idea e volle a tutti i costi che venne fatta la stessa cosa alla Factory, e in effetti la Factory era completamente foderata di alluminio, di carta stagnola. In questo c'è un milione di significati, c'è il fatto che dovunque ti potevi specchiare, che la tua immagine ti guardava da ogni lato, era scintillante, glamour, sfavillante sicuramente, e tu lo eri perché ti specchiavi in qualcosa di estremamente scintillante. Ma la stagnola, ora senza voler fare troppo dietrologie, ma di fatto era anche, andava tantissimo sia nell'immaginario un po' futuristico dell'epoca, sia anche da tutti i consumatori di anfetamine, che all'epoca erano non pochi e sicuramente passavano da quelle parti. Alla Factory inizia l'attività fervente, e Andy Warhol, una delle prime ecco, attività che poi divennero anche le più, una delle più conosciute e una delle più importanti, fu quella della serigrafia. Andy Warhol non è che inventò la serigrafia, anche lì in qualche modo la copiò, prese lo spunto da altre idee, da altre cose che aveva visto in giro, da altre opere d'arte che aveva visto in giro. Fatto sta che lui decide di iniziare a fare queste enormi serigrafie in maniera seriale. Non a caso erano serigrafate, perché se ne potevano fare tante in poco tempo. E lui inizia, insieme a tutta una serie di artisti, suoi collaboratori, a fare queste serigrafie che sono poi quelle notissime con cui conosciamo Andy Warhol e il suo lavoro, le grandi serigrafie di Marilyn Monroe, ma non solo queste grandi serigrafie di divi e dive che in qualche modo lui effettivamente canonizza attraverso questa immagine serigrafica, ma alla Factory c'erano continue mostre in grande stile che fra l'altro appunto avevano molto successo, facevano molto scalpore e parlare di sé, che quindi richiamavano moltissime persone, ed erano mostre fotografiche che avevano come soggetto per esempio degli incidenti. Warhol attraverso queste mostre rifletteva sulla rimozione della morte, e cosa che peraltro non solo lui faceva. Ballard più o meno in quegli anni scriveva Crash e parlava esattamente di questo, della rimozione della morte, del corpo usato in maniera quasi morbosa dal capitalismo, che lo mercifica e lo annienta. E gli incidenti comparivano spesso in queste mostre, incidenti tremendi, spettacolari, così come c'erano spettacolari suicidi, c'erano queste giganti fotografie di suicidi spettacolari che Warhol riprendeva dai giornali semplicemente, e poi ringrandiva facendone delle serigrafie gigantesche, ma c'erano anche riot, enormi gigantografie di riot antirazzisti, erano anche l'epoca di moltissimi riot di afroamericani e afroamericane che si scontravano con la polizia o con i vari razzisti del paese, e quindi anche quello era materia di mostra in qualche maniera, e ti buttava addosso un'immagine violenta e sicuramente problematica per quegli anni così strani che erano gli anni 60 nell'America bianca, gli Stati Uniti perlomeno. E un'altra grande e famosissima attività della Factory erano i film, poi ne parleremo a lungo. I film furono per molto tempo il cuore della Factory. A un certo punto Andy Warhol si accorse che poteva girare dei film con una cinepresa piuttosto piccola, 16 mm, e chiaramente erano delle riprese molto amatoriali, molto caserecce in qualche maniera, ma era ovviamente qualcosa di ricercato, era esattamente quello che voleva Andy Warhol, e così partirono tutta questa serie di riprese statiche, molto statiche, della vita quotidiana spesso, dove il soggetto ripreso diventa un po' il protagonista. Non c'è una trama, non c'è una storia, ma c'è un riprendere in maniera statica queste persone, che sono persone che non sono al momento famose, ma lo diventano grazie a queste riprese, grazie al trasformare un po' la loro immagine in qualcosa di immortale. E quindi così, attraverso questi provini famosissimi che trovate anche dappertutto, tra l'altro se li andate a cercare ce ne sono moltissimi, Andy Warhol inizia a fotografare una realtà e a modificarla. Non è una vera fotografia realistica, non sono dei video realistici, sono dei video che cristallizzano questa quelle persone, i personaggi che riprendono e li rendono dei miti, li rendono delle icone. Una cosa che soleva dire Andy Warhol spesso era la bellezza di tutti, siamo tutti bellissimi. Lui era alla costante ricerca di bellezze, e lui in qualche modo effettivamente sapeva vedere, aveva un intuito per cui sapeva vedere la bellezza in creature che non normate, non normali tra virgolette. E questo era qualcosa che sicuramente dobbiamo riconoscere Andy Warhol. Si dice spesso che Andy Warhol non ha inventato niente, è una cosa che si dice, non sono d'accordo, nel senso che Andy Warhol secondo me ha avuto delle intuizioni molto interessanti, ha fatto un lavoro anche molto interessante che poi magari andremo a vedere meglio, fa parte anche della pop art stessa, quella di copiare in qualche maniera, di riprendere, di cannibalizzare e vampirizzare anche tutto quello che trovava interessante. Questo è il suo bello e poi vedremo soprattutto il suo brutto. Vi spoilero da subito che parleremo, come ho detto in apertura, della Factory, parleremo molto di Andy Warhol e ne parleremo tendenzialmente molto male. e quindi proseguiamo, e prima di inoltrarci anche un po' nel lavoro della Factory e in quello che succedeva dentro quelle quattro mura argentate, vi faccio ascoltare una piccola clip di un minuto di David Bowie, che qualche anno dopo, negli anni 70, racconta del suo primo incontro con Andy Warhol. Bowie era un grande fan di Andy Warhol, lo affascinava molto, soprattutto all'inizio, in quegli anni 60, in cui Bowie era abbastanza pischello e stava muovendo i suoi primi passi, anche molto affascinato da un mondo che sicuramente era estremamente scintillante e che germogliava nella testa di Bowie. Poi più in là, riuscirà a masticare tutto, a digerirlo e farne qualcosa di suo, ma quello era il momento in cui andava un po' in giro scodinzolando, e me lo immagino, da quelli che erano i suoi miti, giustamente. E quindi fa questo primo incontro con Andy Warhol, di cui ci parla e che vi faccio ascoltare brevemente. But I didn't meet him until I guess the early late 60s, early 70s, I can't remember the year. I found him in it was an incongruous kind of situation. The guy was in the factory place, and it was a hive of activity. Everybody was doing something, talking up this, talking up that. And the guy was just sort of very quiet, sort of like a lethal kind of Svengali figure over this whole thing. Everything happened without his seeming to be taking any part in it. He was an extraordinary hypnotic kind of guy. He was very, very funny, very witty man, but it took a long time before you got him talking. Mm-hmm. So this is all before you wrote the song about him? Yes, it was. Yeah, I wrote the Hunky Dory song before I met him. And then I played it to him at the factory, and he said, "Oh yeah, that's great." And that was his critique of the song. I don't know if he ever liked it or not. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol, take one. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Dicevamo David Bowie, come avete sentito, a un certo punto da abbastanza da pischello finalmente riesce a incontrare, non fu facile dopo vari incontri saltati, pacchi vari, insomma alla fine riesce a incontrare il suo mito Andy Warhol e lui aveva, come abbiamo sentito, poco tempo prima aveva scritto un brano, questo che abbiamo appena ascoltato adesso, che si chiamava proprio Andy Warhol, uscito nel suo disco Hunky Dory. In realtà Bowie era già abbastanza famosetto, insomma, non era proprio all'inizio, e anzi, insomma, aveva fatto delle cose ben note, aveva anche trovato già la sua poetica, come dire. Arriva da Andy Warhol con in tasca il suo successo, non so perché, probabilmente questo brano non era tra i più noti e più famosi, però insomma con questa sua canzone molto contento, molto felice di fargliela ascoltare, e lo porta un po' come il suo suo mentore, il suo maestro. Andy Warhol fondamentalmente dice bello, e non lo caga di pezza, e racconta Bowie che fu una boccata clamorosa, ma non tanto per il mancato apprezzamento nei suoi confronti, quanto per la freddezza dimostrata da Bowie e il fatto che lui se l'era figurato, sì, da Bowie, da Warhol, ora smetto di confondere i due nomi, lui se l'era figurato probabilmente come appunto un personaggio meraviglioso, generoso, che aveva tutto un mondo intorno a sé, dentro di sé. Ecco, in realtà quando ci va a parlare, lui aveva mille cose da dirgli, avrebbe voluto parlare dei massimi sistemi della società capitalista, della società dei consumi, di questo, quest'altro. Andy Warhol pare fosse interessato soltanto alle sue scarpe e si mise l'unica cosa che gli uscì dalla bocca, perché per il resto mostrò tendenzialmente solo molto disinteresse e snobismo, e l'unica cosa che gli uscì dalla bocca fu un apprezzamento verso le scarpe di Bowie. E chiaramente Bowie gli morì qualcosa dentro, e mi viene da dire meno male, bella per lui. Fatto sta che questo incontro fu abbastanza rivelatore. E perché ve ne parlo? Perché chiaramente Andy Warhol è un personaggio iconico che adesso siamo nel 2024 e lo conosciamo attraverso più che altro le sue immagini, le serigrafie che dicevamo prima, no? Che hanno reso un po' hanno in qualche maniera reso immortali, per esempio, Marilyn Monroe, tanti altri personaggi, Elvis, eccetera. Ma in realtà Warhol era importantissimo in quel momento, era ammirato moltissimo per aver dato una dignità e un, come dire, aver dato, puntato le luci e delle luci scintillanti su tutto un mondo che altrimenti era reietto, calpestato, denigrato, che era il mondo queer, il mondo transgender, il mondo di tutte quelle persone tossiche, emarginate, che vivevano per strada, prostitute. C'era tutto un mondo newyorkese e non solo, vedremo, che di fatto migranti, tutto un sottobosco interessantissimo che non ha assolutamente inventato Andy Warhol, che però effettivamente a un certo punto ha visto in Andy Warhol sicuramente un momento in cui potevi venire fuori e mettevi la faccia fuori dal, come dire, dalla tana e diventavi una star, cioè d'improvviso tutti ti guardavano, tutti ti fotografavano, non eri più la persona reietta e, come dire, malvoluta, ma eri un mito in qualche maniera, un'icona, una diva. E parlavamo prima dei film girati alla Factory, in particolare al di là dei vari film, perché ne girarono moltissimi, alcuni erano soft porno, alcuni erano decisamente porno, alcuni erano dei film con una sottospecie di trama, insomma c'erano varie tipologie, ma molti di queste riprese, tra l'altro le più famose, erano dei provini, erano quelli che venivano chiamati gli screen test, e che facevano a botte le persone per poter accaparrarsi l'interesse di Warhol e poter apparire in uno di questi provini. Se tu figuravi in uno di questi provini, voleva dire che avevi l'attenzione di Warhol e poi di conseguenza l'avresti avuta del mondo intero, perché era così glam, era così cool poter stare nella Factory e poter essere nell'entourage di Warhol, che chiaramente tutti cercavano in qualche modo di avere quell'attenzione. E questi provini erano, l'abbiamo detto, girati con in 16 mm, con una pellicola a 16 mm. E un dettaglio tecnico che ho letto, che ho trovato molto interessante, è che erano girati a 24 fotogrammi al secondo, ma proiettati a 16, cioè quello, l'intuizione, l'invenzione sicuramente estremamente interessante di Warhol fu di dilatare attraverso questo trucco il tempo. Fondamentalmente si prendeva un video di per sé statico, perché come abbiamo detto erano dei provini statici, le persone venivano fatte posare o in vita o mentre svolgevano delle attività quotidiane, oppure proprio semplicemente davanti alla camera dovevano avere, venivano proprio obbligate ad avere un'espressione il più possibile neutra, quindi non dovevano fare cose particolari, si dovevano mostrare così come erano in qualche maniera. Sì, questo è chiaramente un ossimoro, ma vabbè, tant'è. E in questa maniera, girandoli a 24 fotogrammi al secondo, ma proiettandoli in maniera più lenta, tu che guardi hai una sorta di percezione sfalsata, si dilata il tempo appunto, e i soggetti inquadrati in qualche modo escono dal tempo, non vengono storicizzati. Ecco, questa era un po' l'intuizione di Andy Warhol, che riuscì in questa maniera a storicizzare le persone che aveva davanti, che non erano dive o non lo erano prima di quel momento, davanti alle sue davanti alla telecamera posarono anche personaggi già molto famosi all'epoca. Però la maggior parte erano persone, come dicevamo prima, reiette e così tutt'altro che famose. E in quella maniera eppure si storicizzavano, si cristallizzavano e diventavano dive. E, però il problema è che questo era un modo di Warhol di in qualche modo anche metterti davanti alla violenza della società, dello spettacolo e dell'immagine, no? Che come se ti rubasse l'anima, letteralmente ti prende la tua immagine, la tua quotidianità e la cristallizza in qualcos'altro, facendolo però ti reifica anche, quindi il tuo essere, la tua persona diventa di fatto una merce, un prodotto, ed è quello che Warhol voleva dimostrare, voleva in qualche modo buttare in faccia alla società in cui viveva, ed è per questo che poi ha colpito così tanto l'immaginario, ed è per questo anche che tantissime persone ne sono rimaste affascinate, colpite e ispirate. Ecco, il problema è che tutto questo esperimento sociale, chiamiamolo così, che Warhol faceva, lo faceva con delle persone vere che in qualche modo erano un po' le sue cavie, e storicizzandole, comprandole in qualche maniera, come vedevamo, e reificandole, lo faceva per davvero. Non era un'immagine, un gioco che poi finiva. Queste persone in qualche modo si reificavano per sempre, e questo divenne fondamentalmente una grande operazione estremamente nichilista fatta da Andy Warhol, al limite della crudeltà, secondo me. Il soggetto diventava prodotto, poi diventava merce. Di fatto Warhol poi ci faceva i soldi, ora, senza andare poi troppo nel sottile. Poi alla fine della fiera, senza voler fare troppa filosofia, poi in fondo questo diventavano veramente merci. E quindi le nostre vite viste davanti alla telecamera di Andy Warhol diventavano immagini vuote. Warhol ostentava questa poetica del nulla, della superficie, che però diventava talmente potente da crederci, da diventare poi quello che davvero voleva che fosse. Cioè, non c'era una protesta, c'era una protesta esistenziale evidentemente in questo, ma di fatto poi era quello che poi Warhol ti offriva, non ti offriva nient'altro. La Factory diventa di conseguenza un palcoscenico per la notorietà, tutte, come dicevamo, facevano botte per arrivare alla Factory, e Warhol diventa di fondo un fabbricante di icone, né più né meno. Quelle che erano le persone che di fatto giravano intorno alla Factory e si stabilivano lì, perché poi era una cultura estremamente effervescente, produttiva, veniva descritta spesso la Factory come davvero una fabbrica, cioè si facevano cose continuamente, anche perché la gente era strafatta di anfetamine, non poteva star ferma, e si facevano robe continuamente, treni passavano, progetti, cose, gente che sfasciava robe per ricostruirle, opere d'arte di tutti i tipi, film, orge, di tutto, era un pullulare di cose, e le persone che davano vita un po' a tutto questo erano chiamate le superstar della Factory, erano queste dive che giravano intorno a Andy Warhol, che erano creature strane, ibride, ambigue, anche molto affascinanti, che sono poi quelle di cui parla Lou Reed in moltissime canzoni e di cui parlano i Velvet Underground. Velvet Underground, Lou Reed, Nico, John Cale, tutto quel giro lì, furono tra i primi che entrano alla Factory, perché oltre a tutto questo immaginario che vi dicevamo, la Factory apre le porte anche alla musica, non poteva essere altrimenti. Velvet Underground entrano di fatto dentro la Factory a provare, era il luogo dove loro provavano, dove componevano e dove producevano poi la loro musica, e spesso questa detta di Lou Reed fu un'idea di Andy Warhol, provavano pubblicamente, cioè perché non trasformare le prove, che sono anche il momento più creativo forse della vita di un gruppo, perché non trasformarle anche quelle in uno spettacolo, in una performance. E tra le tante cose ci sono stati, a un certo punto, molto di recente leggevo, sono state ritrovate delle registrazioni con queste prove registrate dei Velvet Underground dentro la Factory. Non ve le faccio sentire perché ho pietà di voi, perché comunque sia sono a una qualità, come potete immaginare, abbastanza pessima, e secondo me sono un ascolto per affezionati, è molto interessante da fare, però non mi sentivo di propinarvele a Slick Chick. Ma vi faccio invece ascoltare un altro brano, che è di Nico, altra persona caduta un po' nella trappola e nel palcoscenico di Andy Warhol, che ebbe il suo sbocciare, anche possiamo dirlo, dentro la Factory, che poi fu sputata via da tutto quel mondo come tante altre persone. Nico, questa volta non vi faccio ascoltare un brano insieme ai Velvet Underground, ma un brano da solo in cui lei è solista, che si chiama Frozen Warnings. Friar Hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Into numberless reflections rises a smile from your eyes into mine. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Station treads, faintly flickers a modest cry. From without a thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the world. In a similar reply, Friar Hermit stumbles the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. warnings close to mine. Close to the frozen borderline. Close to the frozen borderline. Close to the frozen borderline. Close to the frozen Siete su Radio Wombat, ovviamente, e questa è Slick Chick. Vi ricordo i Wombat contatti, che sono radiowombat.net, il sito dal quale potete ascoltarci, in diretta o in differita, se non vi perdete le gioie della diretta, e potete ascoltare i podcast e le registrazioni, altrimenti potete ascoltarci in onde medie o mediocri, che dir si voglia, sulla frequenza 1359 AM, appunto, se vi trovate in quel di Firenze e oltre. E apposta wombat@insiberia.net, la casella di posta alla quale scriverci, e diretta wombat.vado.li, il pad che potete usare per chiacchierare con noi mentre siamo in diretta. E parlavamo della Factory, parlavamo di quel ego maniaco di Andy Warhol, e parlavamo anche di Nico che e di Lou Reed e di Velvet Underground, ovviamente. A un certo punto loro finiscono alla Factory, e in qualche modo fu il loro sbocciare anche per loro, e in realtà erano da soli, senza Nico all'inizio, e fu proprio pare Andy Warhol che conobbe questa per certi versi glaciale ragazza tedesca emigrata dalla Germania, che era Nico, che era strana, che era vestita in maniera sempre maschile, molto per certi versi timida, che non parlava spesso, e ombrosa, molto scura. E a un certo punto però comunque Nico era una figura che incantava, che ammaliava anche solo a vederla. E Andy Warhol si convinse che i Velvet Underground, che erano fondamentalmente dei punk prima che esistesse il punk, che facevano mille sperimentazioni, costruivano strumenti, la Factory per loro era il posto in cui assemblare nuovi strumenti musicali, fare casino, cioè sperimentare in tutti i modi, e soprattutto sperimentare il fatto di non saper suonare, e ricercare anche il fatto di non saper suonare. Erano tra i primi che teorizzarono proprio il bisogno di non saper suonare, di non ricorrere sempre al tecnicismo e di fuggire anzi dall'ipertecnicismo musicale. Ecco, loro erano così, e però erano anche molto burberi, scontrosi, erano un po', come dire, caotici. E Andy Warhol si convinse che Nico sarebbe stata la persona che le avrebbe, la figura che le avrebbe un po' addolciti, che avrebbe fatto da contraltare, e quindi gli piazzò accanto Nico. Loro non erano niente affatto convinti, e tra l'altro lo rimasero per tutto il tempo, nonostante poi in realtà Nico e Lou Reed vivessero insieme, non si sa, probabilmente ebbero una storia, comunque sia, ebbero dei rapporti anche chiaramente molto approfonditi, e si sente anche soltanto nelle loro canzoni, che non sono create così a tavolino, si sente quell'alchimia splendida. Nel primo disco meraviglioso dei Velvet Underground. E però Nicola la snobbava, era sempre un'estranea di fondo, era sempre quella che non che era di troppo. E infatti l'idillio durò ben poco, Nico se ne andò dai Velvet Underground, litigando penso più o meno con tutti, e se ne andò dalla Factory. Del resto Andy Warhol era famoso per avere queste infatuazioni così, che duravano molto poco, potevano durare un anno, due anni, e in quell'anno e due anni erano, tu potevi vivere in questo stato di grazia in cui venivi costantemente portata in palmo di mano, offerta alla stampa, esibita in qualche maniera, e era tutto un continuo di lusinghe, di così, di pettinamento del tuo ego. E poi a un certo punto però Andy Warhol si stancava. Spesso succede, questa cosa coincideva, pare, quando iniziava a ingelosirsi, quando il suo ego veniva, sembrava essere un po' messo in ombra dalla figura femminile o non femminile che gli stava accanto, e quindi a quel punto ti scaricava sostanzialmente, e lì era un cadere giù dalla rupe violento. Questo successe anche a Nico, che poi fece moltissimi dischi da sola, si rifugiò al Chelsea Hotel, tra l'altro in una puntata ne abbiamo parlato, una delle prime puntate di Slick Chick, dedicata tutta interamente al Chelsea Hotel, che se volete sul sito la ritrovate. E anche Nico stava tra le varie persone che alloggiavano al Chelsea Hotel, ci stava pure Nico, e niente, lei proseguì poi tutta la sua carriera solista, il suo percorso, molto interessante peraltro, si ritirò a fare cose tutt'altro che banali e tutt'altro che trascurabili, anzi, il disco che abbiamo sentito adesso era uno di questi, ma continuò moltissimo, c'è anche un live in Giappone meraviglioso che ricordo, insomma moltissime cose. Morì però abbandonata fondamentalmente da tutti, lontano dai riflettori, profondamente amareggiata e triste e depressa, e morì in un modo che a me è sempre colpito moltissimo, perché morì cadendo di bicicletta in un modo veramente stupido e casuale per una persona così, così enorme, e non venne curata in tempo perché non riuscivano a trovare un ospedale che la prendesse. Sostanzialmente non la voleva nessuno, non c'erano posti e non la volevano in ospedale, e morì in questo modo stupido. E questo era Nico, e tanti altri però erano i personaggi, le superstar passate alla Factory, e che poi sulla quale si è basata la Factory e Andy Warhol. Andy Warhol in realtà non sarebbe stato niente se non avesse avuto tutte queste creature di cui si è nutrito per anni. Vi cito soltanto alcuni più noti: Joey D'Alessandro, famosissimo, iconico anche lui, un ragazzo è arrivato nell'entourage di Andy Warhol molto giovane, che faceva le marchette, batteva e si campava da vivere così, bellissimo, e che divenne poi un attore, prima fondamentalmente di film porno, poi di film porno artistici nel giro di Andy Warhol, e poi piano piano iniziò a girare anche altro, e poi insomma è tuttora è vivo e ha recitato in tantissimi film, anche insomma più convenzionali, ecco. Ultraviolet, un'altra che vi cito, strafamosa, una delle più citate della Factory, una surrealista francese, lei veniva anche lei da un bel mondo, perché comunque era franco-americana, cresciuta al riformatorio, con un bel portato anche lei alle spalle, familiare. Direi che tutte le superstar della Factory probabilmente erano accomunate da questo, era un po' il circo dei bimbi sperduti, ecco, vogliamo chiamarlo così, e fu portata a Warhol da Dalì, altro frequentatore della Factory. E Holly Woodland e Candy Darling, altre star, superstar della Factory, attrici e artiste transgender, anche loro piuttosto poi, non solo al tempo della Factory ma anche dopo, diventate piuttosto famose. Jackie Curtis, Billy Name era il fotografo e regista che vi citavo all'inizio, quello da cui venne ripresa l'idea di foderare tutto di carta stagnola. E poi c'era anche Mario Montes, il mio spagnolo portoricano è orrendo, che divenne anche esso una superstar di Andy Warhol, anche se però era un po' particolare perché non erano tante le persone, le superstar di Warhol, che in qualche modo non riuscivano a essere manipolate da lui. Lo vedremo, ce ne sono veramente poche. Una pare fosse Lou Reed, anche se in realtà Lou Reed lo difese fino allo stremo, anche veramente quando era indifendibile, e non riusciva a parlarne male anche nei suoi difetti più ovvi. Però Lou Reed fu uno di quelli che riuscì comunque a fare la sua vita e non fu completamente distrutto anche dall'incontro con Andy Warhol. Purtroppo non è andata così per quasi nessuna delle superstar. Mario Montez fu un altro che riuscì a sopravvivere in qualche maniera e avere la meglio. Dichiarò per esempio in seguito che non aveva mai instaurato una stretta relazione con l'artista, forse fu proprio quello che la salvò. Diceva: non mi drogavo, perciò non mi hanno mai coinvolto in ciò che succedeva alla Factory. Era in realtà un artista famosissimo e molto amato, quindi in realtà Andy Warhol se ne fregiava di averlo nella Factory, però probabilmente rimase sempre un po' a latere. E tra l'altro disse non ha mai ottenuto il guadagno che peraltro aveva sperato dai suoi lavori, perché dice: con Warhol tutti erano costretti a firmare per la cessione dei diritti prima di fare qualsiasi cosa. Ricordiamolo che comunque tutto bello, ma non era proprio in autogestione, cioè Warhol comunque guadagnava su qualsiasi opera d'arte, che compresi film, qualsiasi roba che passasse di lì. E tra l'altro poi tutti i lavori di Mario Montez arrivarono tutti, no, ma insomma sono stati oggetto di seminari, proiezioni alla Columbia University, al MoMA, al Museum of Moving Image di New York, cioè in realtà roba che poi ebbe una grossa notorietà e una grossa importanza, e lui non vide fondamentalmente mai nessun riconoscimento, un riconoscimento magari sì, ma sicuramente mai una lira. E tra le altre superstar di Andy Warhol arriviamo a una delle mie preferite, forse una delle più tristi, che era Eddie Sedgwick. Well, how does your family feel about your being in these movies? they hate it. They're terrified. They think I'm just beyond belief, out the window with me, you know. And they've decided I shouldn't have any money. They hated the idea of my doing any modeling to make my own way. And as soon as I got into this, they're sending telegrams saying, "Oh, you've got to go model, please, just for a short time." And they're so horrified that it amounts to the fact that they'll endorse the modeling idea 100 times before they dream of having to deal with this. Everybody knows. does to please now. She's just a little tease now. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows. Fatal era il pezzo che i Velvet Underground dedicarono a Eddie Sedgwick, che era una ragazza che proveniva da una ricchissima famiglia americana. Pare che la famiglia di Eddie, di Edie, fosse discendente da George Washington, niente meno. Lei passa l'infanzia in una tenuta di campagna, una gigantesca, pare un posto idilliaco, un ranch in California, sottratto, ricordiamocelo, ai nativi americani qualche decennio prima. Di questo si parla, poi in fondo cioè, troppo spesso non ci pensiamo. Il padre è un manico dello sport, ossessionato dal corpo, è un razzista conservatore, era veramente un personaggio estremamente morboso e violento in tutto. Suo fratello Minty pare avesse deluso moltissimo l'orgoglio paterno, perché si era dimostrato un fallimento nello sport, non rispondeva a nessuno probabilmente dei canoni maschili che il padre voleva per sé, insomma, che voleva che suo figlio soddisfacesse. Finisce suo fratello Minty comunque nell'esercito. A un certo punto ovviamente sbrocca, inizia a stare sempre peggio, tra l'altro pare che andasse dal padre chiedendogli di poter andare in cura, a farsi vedere da un terapista, uno psicoterapista, e che il padre lo picchiava tutte le volte lui chiedeva questa roba. A un certo punto Minty confessa al padre di essere gay e pochi giorni dopo si impicca. Vi potete immaginare la reazione che il padre aveva avuto. L'altro fratello di Edie, Bobby, era un po' la nemesi maschile di Edie. Era bellissimo, molto ribelle, molto scalmanato. Faceva tutte le cose che potevano dispiacere al padre. Andava in giro per il mondo, era politicizzato per quanto potesse, andava in moto, faceva casino, ecco, e muore in un incidente in moto bruttissimo, tra l'altro nello stesso giorno in cui anche Edie fa un incidente in moto, un incidente in macchina credo, ma insomma non mortale. L'altra sorella, avevano moltissimi figli, ovviamente vi potete immaginare, nella famiglia abbiamo descritto perché no, aveva ovviamente moltissimi figli, e la sorella di Edie, Susie, viene soprannominata dal padre Salsiccia fin da piccola. Raccontano tutti in famiglia delle continue battute sessuali sulle figlie, e poi viene fuori piano piano le biografie anni dopo che sia Edie che Susie venivano continuamente abusate dal padre e anche da uno dei fratelli. Ecco, c'era questo ambiente terribile in cui visse Edie, in questa famiglia ricchissima, e pare che cercherà per tutta la vita un po' questo tipo di amore malato, un po' luccicante, falso, come le icone di Warhol, per appunto. Era un padre estremamente, un padre, una famiglia estremamente geloso, possessivo, morboso, che in qualche maniera voleva a tutti i costi possederti e al tempo stesso dirti che non valevi niente. La prima volta che viene ricoverata Idi ha 19 anni, è ricoverata in psichiatria e sostanzialmente viene fatta ricoverare a forza dal padre. Lei non era semplicemente colpevole di stare sbroccando in quella situazione, di essere particolarmente irrequieta e nervosa, e la fa ricoverare, la obbliga a ricoverarsi a 19 anni. Fondamentalmente il padre vorrebbe buttare la chiave, perché lei è, Idi è bellissima, incredibilmente bella, ma anche incredibilmente sofferente, si vede in qualsiasi cosa. E soffre di bulimia, ha un rapporto con il cibo terribile, anche perché il padre era, al contrario, incensava il rapporto con il cibo, era un ipersalutista, la obbligava a mangiare un sacco di cibo, cibo che decideva lui. Lei soffre moltissimo in tutti i modi possibili. E a un certo punto finalmente si trasferisce a New York, a Manhattan, e riesce a uscire da questo inferno, e perlomeno fisicamente riesce a uscirne, perlomeno per un po'. Fra l'altro arriva la Factory, ma in contemporanea non è solo la Factory che frequenta, lei diventa un po' un simbolo già da prima della vita controculturale underground newyorkese e statunitense, perché è bellissima, è un filiforme che era, o comunque un gusto estetico, soddisfaceva un gusto estetico dell'epoca estremamente preciso, che voleva le donne un po' androgine, molto magre, con questa aria sofferente ma al tempo stesso decisa, e lei, ecco, esattamente così. E in più ha quest'aura effettivamente magnetica, che basta che guardiate una sola foto di Sedgwick, come dire, è inconfutabile, ha un qualcosa di tremendamente triste negli occhi, nonostante sia bellissima e sia davvero emani una luce in qualche maniera, iperattiva. D'altra parte, lei fin da subito, anche perché frequenta, come abbiamo detto, la psichiatria fin da molto giovane, quindi gli danno qualsiasi tipo di psicofarmaco e gli danno un sacco di anfetamine, e lei si abitua ben volentieri, e quindi ha un metabolismo e una vita estremamente velocissima, fa mille cose al secondo, e vive questo arrivo a New York come un po', appunto, la grande diva che viene scoperta. Tutto il mondo inizia a parlare di lei. Lei d'altronde è ricchissima, e quindi si può permettere di andare nei circoli più influenti, più chiacchierati, sta in mezzo alle dive, si compra abiti bellissimi, è nel jet set a tutti gli effetti. A un certo punto incontra Andy Warhol, ma incontra anche Bob Dylan. Una storia con Bob Dylan, altro personaggio che ha un rapporto ottimo con le donne, generalmente anche lui proprio ne ha una cura famosa, rinomata, e viene ovviamente usata e buttata via, esattamente come fa Andy Warhol, con questa fascinazione che la innalza un po' a Madonna, a, come dire, appunto, a icona sacra, intoccabile, bellissima, meravigliosa, quanto sei figa, quanto sei stupenda lì dove stai su quel piedistallo, non ti muovere però. E poi a un certo punto però mi ha rotto il cazzo, basta. Così fa anche Bob Dylan. Lei sa in maniera molto gentile, peraltro, da Andy Warhol che era gelosissimo di Bob Dylan, che malignamente a un certo punto gli fa sapere che Bob Dylan comunque si era sposato da mesi senza manco dirglielo, con un'altra donna, quindi lei va in crisi. Conosce Andy Warhol, come dicevamo, nel 65, e entra nella Factory, e per un paio di anni che è penso uno dei massimi raggiunti da Warhol, diventano inseparabili. Pare che fossero, sembravano l'uno l'imitatore dell'altro, perché lei praticamente inizia a vestirsi come lui. Lui aveva questo caschetto, questi capelli un po' molto corti, molto ispidi, biondi, però era anche estremamente goffo, non aveva un'eleganza particolare Warhol, e lei lo imita. E il problema è che lei era ovviamente naturalmente meravigliosamente elegante, quindi erano buffissimi insieme. Vengono descritti come questa coppia sempre insieme, sempre vestiti uguali in maniera anche un po' morbosa, dove lei era come l'ombra splendente di lui, ecco. E però era un'ombra, ovviamente. Viene detta la musa, ma la musa spesso è quel termine che usano gli uomini per definire una donna usata, fondamentalmente, che rimane nell'ombra. E in questo periodo lei diventa fondamentalmente famosa, inizia a girare film, posa per diverse riviste e diventa veramente un'icona di stile anche in quel periodo. Uno dei film più famosi è Kitchen del 65, proprio un film di quelli di Warhol, della Factory, e l'ultimo è Ciao Manhattan, che era un film invece sperimentale di cui era protagonista, dove registrava se stessa. E tutti questi film erano dei film particolari, erano film che avevano una produzione che durava anni, perché magari erano film dove a un certo punto in uno di questi c'era per esempio un'orgia che durò settimane, i personaggi erano strafatti dall'inizio alla fine e stavano in questa piscina che a un certo punto si otturò con tutte le siringhe che loro usavano. Cioè c'era questo mondo strabordante, eccessivo, devastante, in cui lei a un certo punto inizia a affogare palesemente. E continua ad abusare di farmaci e di sostanze, fondamentalmente di tutti i tipi, fino ad arrivare all'eroina, ma le prova penso oggettivamente tutte. Dice che lei si portasse in giro questa borsetta molto, molto precisa, ordinata, era estremamente ossessiva nei suoi riti, nelle sue cosette, tutto doveva essere a posto e dentro c'aveva di tutto il necessario per gestire tutte le sue sostanze. E la cosa chiaramente andò sempre peggio, finché lei non iniziò a fare avanti e indietro dagli ospedali psichiatrici, molto spesso obbligata dal padre, appunto. Famosa una volta in cui lei andò a trovare i genitori, insomma la famiglia, per Natale, non riusciva più a stare in quella famiglia, chiaramente, senza comportarsi in una maniera inaccettabile per loro, e loro la presero, la buttarono per l'ennesima volta in una struttura, dichiarandola matta, e quella fu solo una degli episodi, ce ne furono moltissimi. A un certo punto sparì fondamentalmente dalle scene, sparì dalla Factory. Andy Warhol se ne disinteressò e la fondamentalmente abbandonò, perché era giunto il momento per lui, era già durato troppo. E quando la stampa gli chiese a Andy Warhol che fine aveva fatto Edie, lui dichiarò: non so dove sia, non siamo mai stati molto intimi, ci ha lasciati molto tempo fa, ma io non l'ho mai conosciuta molto bene. E con questo giudizio lapidario, con questo lavarsi le mani in maniera neanche elegante, scaricò Edie in tre parole. Nel frattempo lei stava in strutture psichiatriche, gli fecero 20 elettroshock in un anno, e una volta, in una delle tante, il 16 novembre del 71, trovarono il cadavere di Sedgwick, morta per un'overdose di barbiturici. Tanto per Andy Warhol nel frattempo di questa sua nemesi cosiddetta femminile, di questa sua figura ombra, ne aveva fatto un'icona immensa, l'aveva spinta al massimo per farla rendere per esempio in Poor Little Rich Girl, che divenne un successo di pubblico incredibile, che parlava di lei, parlava di questa povera ragazza ricca, e lui aveva questo modo di denigrare le persone che aveva di cui evidentemente si era anche servito per anni. E questa è la vicenda tristissima di Sedgwick. Imparerò forse alla fine della puntata a dire bene il suo nome. E tanti ci hanno scritto, ci hanno fatto canzoni, film, ci sono moltissimi film e documentari. E un brano vi faccio ascoltare, dei Cult, gruppo che a me non piace, che però devo dire questo brano mi piace molto, è abbastanza imprescindibile quando si parla di Edie, e si chiama proprio Edie, Ciao Baby. Stars wrapped in your hair. Avrei dovuto mettervi, mi pento di non avervi messo la versione acustica, così vi avrei risparmiato tutte ste pirule fastidiosissime, ma è andata così, e pazienza. E siamo quasi alla fine della nostra vicenda, parliamo stasera, vi ricordo se vi siete messi in ascolto adesso, della Factory di Andy Warhol, dei primi anni 60, e nel 67 la Factory viene demolita, dicevamo proprio quell'edificio con la fabbrica, la vecchia fabbrica di cappelli, a un certo punto viene demolita, erano anche gli anni tra l'altro di tutta una ristrutturazione, ridisegnamento del restyling, anche potremmo dire, dell'urbanistica di New York, e insomma ci sarebbe da dire tantissimo di quel contesto, ma adesso non abbiamo il tempo per farlo. Fatto sta che viene demolita la Factory e tutto il carrozzone trasloca piuttosto vicino in realtà, e nel 68 il 3 giugno particolare del 1968 entra in scena Valerie Solanas, che a un certo punto entra alla Factory e spara per ammazzare Andy Warhol, decide di ucciderlo, spara Andy Warhol e altri suoi due collaboratori che si trovavano lì vicino. I due rimangono feriti, ma abbastanza, se la cavano con poco. Andy Warhol non muore, ma rimane comunque, diciamo che se la cava per miracolo, rimane molto ferito, molto gravemente, insomma riescono a salvarlo abbastanza per il rotto della cuffia. E si parla molto di questo momento, perché chiaramente cambiò tutto, lo vedremo, fondamentalmente Andy Warhol non si riprese quasi più da questa cosa, gli si ruppe qualcosa nel cervello, e non solo nel cervello, anche nel corpo. Fatto sta che si parla molto di questo, si parla un po' meno di Valerie Solanas, e spesso viene marcata come la femminista pazza che aveva ceduto molto spesso. Del resto si tende a come dire, a tollerare le femministe finché fanno determinate cose entro un confine accettabile, accettato da tendenzialmente uomini, ma insomma quando si è molto aggressivi e molto lapidari nei confronti di quelle femministe che invece eccedono e assumono dei comportamenti, anche delle forme di lotta anche estremi. Valerie Solanas disse: in questa società, lo scrisse, in questa società la vita nel migliore dei casi è una noia sconfinata e nulla riguarda le donne. Dunque alle donne responsabili, civilmente impegnate in cerca di emozioni sconvolgenti, non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione globale e distruggere il sesso maschile. Ora, potremmo aver da ridire su alcune di queste affermazioni, in particolare io avrei da ridire sull'automazione globale, ma vabbè, però in ogni caso questo era un pezzo dello Scam Manifesto, che era un manifesto che Valerie Solanas scrisse nel 1967, lo pubblica in proprio, è la prima edizione, dopo 2 anni di lavoro, di controlli minuziosi, e fondamentalmente era un manifesto che attaccava, come potete immaginare, ferocemente il patriarcato, la figura maschile, cerca di ricostruire tutto quello che aveva subito. Lo va a vendere, vende questo manifesto per strada, più o meno dalle parti, per l'appunto, del Factory, perché lo vende vicino a Greenwich Village. E la parola scam vuol dire feccia, scarto, e lei la utilizzava, cioè il titolo del suo manifesto era questo, perché fondamentalmente per lei rappresentava lo stato delle donne che vengono relegate alla, al ruolo di feccia in un sistema sociale definito dagli uomini e dalla morale maschile. Dopo che Valerie Solanas cercò di uccidere Andy Warhol, lei passò 3 anni, fu condannata a 3 anni di carcere e mentre era in carcere l'Olympia Press, che era una casa editrice, acquisì i diritti sul manifesto, su Scam, e ne pubblicò una versione completamente alterata che aveva il titolo Scam scritto con i puntini come se fosse un acronimo e che è sotto il titolo era Society for Cutting Up Men, ma in realtà era un acronimo che Solanas non, che Valerie Solanas non utilizzava e mai fra l'altro usato nel libro. E Valerie Solanas dal carcere negò questo titolo, lo rinnegò e cercò in tutti i modi di riprendersi i diritti sull'opera, ma senza riuscirci. E fu con quella edizione lì che in realtà si diffuse maggiormente il manifesto Scam di Valerie Solanas, quindi una versione sostanzialmente cambiata, edulcorata, proprio modificata di fatto. E 10 anni dopo questa, dopo la sua prima edizione, nel 77, la casa editrice fallì per fortuna e quindi Valerie Solanas riuscì a riacquisire, a rientrare in possesso dei diritti del manifesto Scam, rientra in possesso dei diritti, lo rivede, lo riformula per com'era e lo ripubblicò, tradotto in diversi paesi, ma chiaramente a quel punto non ricevette più la stessa attenzione. Erano passati 10 anni e ben altro c'era nel 77 anche che riguardava il femminismo. Tra le altre cose, Valerie Solanas, che scriveva molto, era un'attrice, scrisse anche la sua opera teatrale che si chiamava Up Your Ass, su per il culo, che aveva come protagonista Bonji Perez, una lesbica butch. E lei aveva un'unica copia, che era la sua copia dattilografata. Praticamente lei aveva delle scene al suo interno considerate abbastanza tabù, erano piuttosto sconcertanti, scandalose per l'epoca e nessuno gliela voleva pubblicare fondamentalmente. A un certo punto riuscì a pubblicarla sempre autoproducendosela e distribuendosela in giro per i suoi circuiti. Anche lei fra l'altro viveva al Chelsea Hotel e fu uno dei luoghi dove riuscì a distribuirla. Tra il 65 e il 68 Valerie Solanas iniziò a frequentare la Factory e fu lì che a un certo punto, in questo mondo dove lei entrò, fece parte di questo entourage, anche lei entrò dentro questo mondo e fu innalzata almeno per un periodo al ruolo di vetta, non veramente diva, ma insomma partecipò a questo circolo e ne parlò malissimo, cioè disse fondamentalmente era un mondo estremamente pesantemente in realtà maschilista e lei che più che altro denigrava le donne. Lei stessa venne descritta molte volte, ma questo lo diceva solo lei, lo dicevano un po' tutti, veniva definita una patetica pezzente deficiente mentale. Andy Warhol la chiamava spesso lesbica schifosa, disgusting dyke, insomma, era per far capire l'ambientino. Nonostante questi rapporti anche altalenanti, perché Valerie Solanas, come si diceva prima, era una delle bimbe sperdute raccolte da Andy Warhol. Lei era abusata fin da piccola anche lei, dai genitori, dal padre, famiglia di migranti, poverissima, che si guadagnava da vivere battendo in strada. Insomma, a un certo punto non era un caso anche che Andy Warhol si conquistasse anche l'affetto dei bimbi sperduti che raccattava. E, insomma, in tutta questa storia Valerie Solanas a un certo punto consegna ad Andy Warhol l'unica copia di questo dramma che avevamo detto di Up Your Ass, chiedendogli di pubblicarla. Andy Warhol sostanzialmente lo butta nel cesso, lo bolla come una roba troppo pesante, troppo scabrosa, non la poteva presentare, e dire che Andy Warhol di roba scabrosa ne faceva, ma quella era un po' troppo. E Valerie allora disse: va bene, ok, non la vuoi pubblicare, rendimi la mia copia, che è l'unica copia. E lui gli disse: ok, l'ho persa. E quindi lei chiaramente rimase malissimo, disse: ok, però era l'unica copia. Allora gli chiese dei soldi come risarcimento, Warhol la ignorò e le offrì il ruolo di una comparsetta in cui lei avrebbe dovuto interpretare una donna lesbica che rifiuta un uomo. Giusto per dire, insomma, in tutto questo ambiente lei fondamentalmente inizia a covare un odio, un rancore, una rabbia gigantesca, che poi la porteranno fondamentalmente allo sfogo finale, in cui lei decide di andare a ammazzare Andy Warhol. Warhol, fra l'altro, utilizzò vari pezzi del lavoro fatto da Valerie Solanas, sia come attrice nei suoi film, sia di altro, senza mai citarla, senza mai rendergli merito, ma al di là del merito lei gli aveva espressamente chiesto di non utilizzare il suo materiale, lui non se ne fregò altamente. Insomma, quella sera di giugno in cui Valerie Solanas sparò ad Andy Warhol, lei poi si costituì alla polizia, fu arrestata e si giustificò dicendo che Warhol aveva troppo controllo su di lei, e questo probabilmente era il macro tema dentro la Factory. Venne ovviamente condannata e ripreso una condanna a 3 anni, ma tra l'altro c'è da dire che però almeno questo Warhol rifiutò di testimoniare contro di lei, almeno questo. Valerie Solanas, per non farsi mancare niente, oltre a 3 anni di carcere fu giudicata incapace di intendere e di volere, schizofrenica paranoide fu la diagnosi che gli appiopparono, e fu portata all'ospedale psichiatrico e niente, poi da lì fondamentalmente finì i suoi giorni, o meglio iniziò a fare avanti e indietro, e non morì in un ospedale psichiatrico veramente. Morì di enfisema e polmonite al Bristol Hotel a San Francisco, molto giovane, a 52 anni, nell'88, però insomma di fatto la sua vita passò, molta della sua vita passò in cliniche psichiatriche. Così, giusto per finire la cronaca, in seguito a questi eventi Warhol produsse un film che si chiamava Woman in Revolt del 71, in cui inserì dei richiami satirici verso lo Scam Manifesto, che erano le vicende, la trama era questo gruppo, ruotava tutto intorno a questo gruppo femminista che si chiamava PIG, che era l'acronimo di Politically Involved Girlies, e questo fu in qualche modo il metodo con cui Warhol si prese gioco per l'ultima volta di Valerie Solanas. E giusto per appunto non finire troppo in tragedia, ci ascoltiamo i Big in Japan, che sono un gruppo molto bello e molto sottovalutato, che ha scritto un punk anni 80 così, e ha scritto un brano dedicato allo Scam Manifesto e a Valerie Solanas, che si chiama proprio Scam. Look out, Andy. mentre le zanzare e il caldo ci danno il tormento nella Wombat regia, nella tana del Wombat, ci avviamo a concludere questa puntata di Slick Chick dedicata alla Factory, alla Silver Factory di Andy Warhol, e chiudiamo con un brano che Lou Reed e John Cale, quindi tra le anime di The Velvet Underground, hanno dedicato proprio a Andy Warhol e alla Factory, anche alla sua fine. Come abbiamo detto, la Factory, dopo il tentato omicidio di Andy Warhol, dopo l'attentato di Valerie Solanas nei suoi confronti, la Factory si chiude all'esterno. Prima era un luogo dove, fondamentalmente, come dimostra anche il fatto che lei, che Valerie Solanas è entrata tranquillamente dalla porta senza che nessuno la fermasse, la Factory era aperta a tutte e a tutti. Era un luogo dove abbiamo descritto abbondantemente le cose che succedevano dentro, e volutamente era completamente aperto. Warhol inizia a entrare in una fase di paranoia e di paura sostanziale enorme, e si chiude completamente. La Factory si chiude anche fisicamente verso l'esterno e diventa fondamentalmente lo studio di Andy Warhol. Quindi basta con tutta questa apertura al mondo, tutta questa facciamo entrare tutti nella mia nave, e Warhol inizia a diventare un po' l'ombra di se stesso, un po' tormentato dai fantasmi e forse anche dai rimorsi, mi viene da sperare. E in questo modo molto amaro si chiude l'esperienza della Factory, e peraltro che va avanti per molto, cioè non è che si chiude in maniera veloce. Warhol, di fatto, nel suo studio, che a quel punto però è diventato una cosa completamente diversa, però ci sta anni e anni, e però ormai la sua figura è diventata qualcosa di completamente diverso, come abbiamo visto. John Cale e Lou Reed, questa Slip Away A Warning, che è un brano che è contenuto in questo album che appunto loro dedicano nel 90 a Andy Warhol dopo la sua morte. L'album si chiama Songs for Drella. In questa canzone Slip Away loro raccontano proprio di questo loro come dire, amarezza nel constatare di un mondo che finisce, un progetto che finisce, che è stato evidentemente anche il fulcro di un universo e che tanto ha fatto, perché questo va detto, che ha cambiato moltissimo nella cultura dell'epoca e anche non dell'epoca, ecco, mi viene da dire, dobbiamo moltissimo probabilmente alla Factory, e più che Andy Warhol a tutte le persone, le creature strane che la frequentavano e che lo animavano. Però ecco, in questa Slip Away loro raccontano proprio di questo chiudersi, di questo morire lentamente, di questo trasformarsi. Drella, Songs for Drella si chiama appunto l'album, perché Drella era uno dei soprannomi di Andy Warhol, soprannome che non piaceva a Andy Warhol per niente, perché era l'incrocio tra Dracula e Cenerentola, Cinderella, e nome secondo me azzeccatissimo. E nonostante John Cale e Lou Reed erano dei grandi fan, appunto tra i pochi che continuarono a difendere strenuamente Andy Warhol, comunque sì, evidentemente avevano ben chiaro le problematiche di questo personaggio, se avevano scelto un nome del genere. Si tratta di un album che contiene 14 brani biografici che raccontano un po' tutta la vita di Warhol a modo loro. Partono in ordine cronologico dalla nascita di Warhol in Small Town, in questa piccola cittadina, fino alla morte. E in questo Slip Away che ci ascoltiamo in chiusura, che poi fondamentalmente significa sparire, il titolo significa sparire, dice: gli amici hanno detto di sprangare la porta, di non tenere più una casa aperta a tutti, dicono che la Factory deve cambiare, sparire lentamente, ma se devo vivere nella paura, dove andrò a trovare le mie idee? Senza tutti quei matti, lentamente sparirò. Già non c'è più Billy Name, Ondine non è più lo stesso, andati Wanton e Turtle lentamente spariscono. Se chiudo la porta della Factory e non vedo più quella gente, se mi piego davanti all'infamia sparirò lentamente. So che all'apparenza gli amici hanno ragione, salve luce del giorno, arrivederci notte, ma la luce delle stelle è così tranquilla qui, penso che sparirò lentamente. E questo è appunto un po' il racconto finale, Slip Away, che Lou Reed e John Cale fanno della Factory e in particolare di Andy Warhol. Con questo vi saluto, vi auguro la buonanotte, vi lascio alla bobina di Radio Wombat e alla prosecuzione delle prossime trasmissioni che continuano anche domani ovviamente, e vi do appuntamento tra due lunedì sempre con Slick Chick. Ciao ciao! Friends have said to lock the door and have an open house no more. They said the factory must change and slowly slip away. But if I have to live in fear, where will I get my ideas? With all those crazy people gone, will I slowly slip away? Still there's no more Billy name, Undine is not the same, Wonton and the turtle gone, slowly slip away, slowly slip away. I close the factory door and don't see those people anymore. If I give in to infamy, I'll slowly slip away. I know it seems that friends are right, hello daylight, goodbye night, but stillness is so quiet here, think I'll slowly slip away. I do by myself. It's good to hear from someone else. It's good to hear a crazy voice. Will not slip away. Will not slip away. If I have to live in fear, my ideas will slowly slip away. If I have to live in fear, I'm afraid my life will slip away. If you can't see me past my door, why your thoughts could slowly slip away. If I have to lock the door, another life exists no more, slip away. Friends have said to lock the door, watch out for what comes through that door. They said the factory must change, but I don't care.